è un compleanno importante e ne parliamo con Deborah Binci, che è la direttrice artistica della rassegna, che quest'anno si chiama. Quest'anno Estate 300 Scalini porta il sottotitolo di Coltiviamo Resistenze, che è per noi una postura, un modo per metterci in maniera solidale e complice con sì, la resistenza storica, sulla linea dell'anniversario che celebra la liberazione di cui la resistenza fu motore e cuore, ma anche appunto in complicità e in solidarietà con tutte quelle che sono le resistenze contemporanee dentro e fuori i nostri confini anche nazionali. Ci interessa questo termine anche in quanto ci riteniamo far parte di quella massa che fa resistenza culturale, che appunto resiste agli urti cercando di continuare a offrire della cultura. Per noi programmare teatro, musica, performance, danza di alta qualità a prezzi accessibili e in collina è un modo per coltivare, mettere dei semi nelle pance delle persone che possono germogliare, in quanto appunto arte e cultura contribuiscono a migliorare le esistenze e le vite di tutti noi. Infatti la rassegna va dal 5 giugno al 10 agosto e comprende 31 giornate di apertura al pubblico con 23 eventi che sono o a offerta libera o a biglietto calmierato. Anche questo è molto importante appunto per rendere la cultura una realtà concreta nella vita della gente. I primi appuntamenti quali sono, visto che c'è la stand-up subito? Esatto, partiamo subito con la stand-up, che è un appuntamento oramai per noi quasi tradizionale, di cui ha la curatela un nostro caro amico, nonché collaboratore, che è Emanuele Tumolo, un comico parte di un collettivo di comici torinese. Quest'anno avremo sul palco lui, Corinna Caso, una giovane comica di Bologna, quindi con la collaborazione anche di Stand Up Comedy Bologna, e Yoko Amada, che è invece una comica veneta, di origini, insomma, italo-giapponese di stanza in Veneto. E poi sabato 7 giugno ci sarà la grande festa. Finalmente, esatto, la nostra festa di inaugurazione, la giornata figata, da apertura cancelli sempre alle 18:30. Avremo banchetti di autoproduzione, DJ set, le nostre fantastiche birre, i nostri fantastici vini, una bella ospitata dell'Hardcore De Marchi, e andremo fino a mezzanotte come al solito. Sì, poi per il resto vedo c'è un calendario di teatro, di danza, di musica, Carlo Atti Quartet, Franz Campi, ci sono varie cose appunto fino al 10 agosto per questa decima edizione di Estate ai 300 Scalini che si chiama Coltiviamo Resistenze. In bocca al lupo. Viva!